Desideri che diventano realtà. Ancora in volo. Introduzione. Sono passati tanti anni dal primo incontro con i nipoti che verranno. Pim ha ora 77 anni. Gli piacerebbe poter dire di essere ancora in ottima forma, ma sa che sarebbe davvero un'esagerazione. Considerata l'età, è però molto grato per tutto ciò che ha, sia sul piano materiale che su quello affettivo, e per il suo benessere, sia fisico che mentale. Il suo desiderio di provare la gioia di diventare nonno e di accompagnare Alia e Kim nelle esperienze delle loro vite, anche se solo per un piccolo tratto, è ancora solo un desiderio. Qui si racconta di altri incontri, ancora in volo e in sogno, e di un desiderio che i nipoti che verranno trasmettono a Pim. Nota sull'arrivo di Kim su Gaia. Il desiderio di Pim di diventare nonno diventerà realtà un anno dopo la data dell'introduzione, quando finalmente Kim arriverà su Gaia. L'incontro in cui Alia e Kim seminano un desiderio. Le altalene appese ai rami della quercia gigante oscillano allegramente. Un vento fresco dona buona energia e diffonde il profumo di erbe aromatiche. Dai prati ricchi di fiori si alza una melodia, sottile e incantata, di grilli, api e mille insetti. Sembrerebbe un'impresa godersi un gelato al limone con foglioline di menta mentre ci si dondola sull'altalena sempre più in alto. E invece, a guardare Pim e i nipoti, si capisce che non c'è altro che gioia e divertimento. Quando la pancia è piena, Alia inizia a parlare. Kim incalza dopo di lei, e così di seguito. È sempre un piacere averti qui con noi, nonno esploratore. Il tuo desiderio di continuare a venirci a trovare è bello e ci scalda il cuore. È proprio grazie al tuo desiderio che ci siamo incontrati tante volte. Tanti voli e tanti bei sogni. Sono passati molti anni dal tuo primo volo, e hai continuato a sognare volando e ad ascoltare, attento e curioso, le nostre voci, quelle delle guide, e della casa. Le voci poi, con tua sorpresa, ti hanno anche raggiunto quando non eri in volo e ti hanno offerto messaggi celesti che hanno accompagnato tanti momenti della tua vita terrena. Grazie ai nostri colloqui celesti, e ai tanti altri messaggi che hai ricevuto, ci sembra che tu ora ne sappia abbastanza del cielo, della vita su Gaia, e del ritorno al cielo. Proprio per questo, abbiamo anche noi un desiderio, e te lo affidiamo. Sappiamo che quando scenderemo in terra l'oblio cancellerà il ricordo dei nostri incontri e dei messaggi celesti che hai ricevuto. Ci piacerebbe che tu ce li facessi trovare, in modo da offrire, a noi quando arriveremo e a chi è ora o sarà in futuro in cammino su Gaia, le verità e le chiavi celesti che ci possano aiutare a vivere una vita di pace, gioia, e crescita, andando oltre l'illusione della paura. Ti va di farlo? La risposta di Pim. Farvi trovare in un libro le conversazioni celesti? È davvero un'impresa. Un'impresa tutt'altro che facile, ma che mi attira. Ho la sensazione che un progetto come questo a cui dedicare energia sarà un bel dono anche per me. E so che l'impresa è possibile grazie a Cecilia e Silvia, alle guide, ai maestri, e a Bibi. È quindi con grande gioia che vi rispondo, certamente sì. E vi assicuro che farò del mio meglio. I libri sulle conversazioni celesti. È passato un anno, e Pim ha mantenuto la promessa fatta ai nipoti. Le conversazioni con le guide e i maestri sul cielo, e le conversazioni con le guide e i maestri su Gaia sono pronte per voi, se le desiderate. E, come ciliegina sulla torta, c'è anche l'appendice, che Pim ha scritto per raccontarvi un po' della sua vita. Se volete sapere di più sulle conversazioni celesti, e sull'appendice, continuate ad ascoltare. Sulle conversazioni, sulle guide e i maestri, sull'appendice, e su Work in Progress. Il libro che avete ascoltato, Conversazioni con i nipoti che verranno, che è il primo libro della serie Conversazioni Celesti, è stato scritto perché Pim non vedeva l'ora di incontrare i suoi nipoti. Siccome i nipoti non arrivavano, Pim, che ha un carattere piuttosto impaziente, ha deciso di andare a trovarli lui. Le voci dei nipoti, delle guide e della casa sono arrivate nella testa di Pim, che le ha tradotte in parole scritte. Le conversazioni con le guide e i maestri, conversazioni celesti, sono state raccolte in libri. Conversazioni con le guide e i maestri sul cielo, secondo volume della serie Conversazioni celesti. E se il segreto della felicità fosse amare se stessi incondizionatamente? E se fossimo tutti creatori della nostra realtà, ma lo avessimo semplicemente dimenticato? Queste conversazioni offrono una prospettiva celeste su grandi temi, su domande che gli esseri umani si sono sempre posti. Le nostre amate guide e i nostri maestri ci dicono che la loro visione, se siamo aperti ad accoglierla e a metterla in pratica, può aiutarci a crescere, donarci pace e gioia e trasformare la nostra vita. Qui la voce delle guide e dei maestri è stata accolta e tradotta in parole scritte da Silvia e i dialoghi si sono sviluppati attraverso le domande di Pim e le risposte delle guide e dei maestri. Conversazioni con le guide e i maestri su Gaia, terzo volume della serie Conversazioni celesti. Ogni momento che viviamo sulla Terra racchiude un insegnamento e un'opportunità di crescita. Questo è il messaggio che guide e maestri ci offrono in queste pagine. Se usiamo la visione celeste invece di quella terrena, e se pratichiamo le chiavi celesti, la paura si trasforma in pace, gioia e crescita. Conversazioni con le guide e i maestri su Gaia ci accompagna in un viaggio attraverso l'intera esistenza umana sulla Terra, dal momento della nascita fino al ritorno al cielo, il passaggio oltre il corpo fisico. I maestri e le guide ci mostrano come applicare questa visione celeste a ogni aspetto della vita, dalla genitorialità e i rapporti familiari, alle paure e le dipendenze, dalla rabbia e le emozioni, alle relazioni interpersonali, la malattia e la guarigione. In questo terzo volume della serie Conversazioni celesti, la voce delle guide e dei maestri è stata accolta e tradotta in parole scritte sia da Silvia che da Cecilia. A offrirci la visione celeste del ritorno al cielo è Bibi, mamma, sorella, amica su Gaia, e ora guida celeste. Un libro per chi desidera vedere la propria esistenza terrena con occhi nuovi, scoprire strumenti concreti per trasformare le sfide quotidiane in opportunità di evoluzione spirituale, e rendere ogni momento un'occasione per espandere amore e consapevolezza. Le conversazioni celesti sono in libri perché le guide ci hanno invitato a farlo. Il loro primo invito a distribuire i messaggi fu rivolto a Silvia. Silvia, ti chiedo di non abbandonare questo progetto. Ci saranno ore nei quali ti sembrerà tutto senza senso, infondato e non produttivo, secondo i canoni terreni. Non ascoltare. Guarda e continua sulla strada della luce. Questa è una grandissima opportunità per molte anime. Le informazioni che scriverai dovranno essere distribuite, perché ci sono anime che le stanno aspettando. E ancora le guide ci hanno detto. Questi messaggi sono meravigliosi perché non sono sottoposti alle leggi del tempo e dello spazio. Sono eterni, potranno essere tramandati milioni di anni terra ed essere sempre nuovi e vivi. Quando ci riferiamo a fratelli e sorelle non intendiamo solo voi. Quando i vostri figli leggeranno i messaggi, fratelli e sorelle sarà diretto a loro. E quando i figli dei vostri figli leggeranno, fratelli e sorelle sarà diretto a loro. Non limitiamoci, espandiamoci. All'inizio le richieste delle guide ci hanno sorpreso e le abbiamo messe da parte. Poi al loro invito si è aggiunto quello dei nipoti che verranno, e col passare del tempo i semi dei loro desideri sono cresciuti in noi. Finalmente ci abbiamo provato e quello che trovate è il risultato, a disposizione dei nostri figli, dei loro figli, e di tutti quelli che leggeranno. A proposito delle conversazioni, ecco quello che le guide ci hanno detto. Ci sono infinite voci sul pianeta in quest'ora, ognuna con la sua ragione di essere e con la vibrazione rispondente a onde energetiche simili. Non c'è competizione, ma unicamente, servizio. Lasciate andare le aspettative. Ci sarà chi accoglierà le conversazioni e chi le contesterà. Nella maggior parte dei casi, chi le dovrà trovare le troverà, chi non è pronto non le riconoscerà. Tutto ciò non è assolutamente nel vostro controllo, appartiene all'evoluzione di ognuno e al proprio libero arbitrio. È nelle mani dell'universo. Guide e maestri. Chi sono le guide e i maestri? Ecco la loro risposta. Non siamo altro che consapevolezza non incarnata, parte dell'uno. Siamo vostri fratelli e sorelle universali, o vostre guide, se preferite chiamarci con questo nome. Cosa vuol dire per noi essere guide? Vuol dire essere servizio. Siamo al servizio. Siamo servizio. Senza giudizio, senza critica, senza aspettative, senza richieste, senza insegnamenti, senza dottrina, senza superiorità. Siamo qui per servirvi ed amarvi. Ci è stato insegnato che l'atto di offrire dal cuore e di metterci al servizio senza aspettarci alcun riconoscimento è un puro atto d'amore. Un atto semplicissimo ed immenso allo stesso tempo. Un dono a noi stessi e al tutto. Le nostre discese su Gaia sono state innumerevoli, ed abbiamo fatto esperienza di tanto, e partecipato alla nostra crescita ed alla crescita dell'Uno, così come state facendo voi in quest'ora. Silvia, Cecilia e Pim. Silvia è la sorella di Cecilia, che è la metà di Pim, che sono io che vi scrivo. Queste conversazioni sono il risultato delle nostre energie, di quelle delle guide e dei maestri, e di quella di Bibi. Il linguaggio delle guide e dei maestri. Capire i messaggi non è facile, specialmente all'inizio. Col tempo però quello che sembra confuso e strano si chiarisce, e diventa un piacere leggerli. Può essere utile seguire il consiglio delle guide sulla pazienza. Ciò che diciamo vi arriva in forma di blocchi di pensiero. Nella vostra mente all'inizio le informazioni che ricevete possono apparire come una massa agglomerata, difficile da districare. Immagina un mosaico. Ogni blocco è come una tessera del mosaico. Per vedere l'immagine completa, ogni tessera deve trovare il suo posto. Ascoltateci con pazienza. La comprensione dei messaggi cambia anche nel tempo. Un proverbio dice, quando l'allievo è pronto, il maestro appare. Lo stesso messaggio ci appare in un modo, o in tutt'altro modo, a seconda della nostra crescita. L'appendice. Nell'appendice troverete le mie memorie e alcuni commenti sui messaggi di vita vissuta, la nostra vita e quella dei nostri figli. Un viaggio nella memoria di ora passati insieme, che ricordo con grande gioia. La mia speranza è che l'appendice possa creare una catena d'amore tra di noi. E che la catena d'amore possa continuare ad espandersi con altri commenti, forse quelli di Silvia e Cecilia, che sarebbero davvero preziosi, o i vostri, o dei vostri figli, o dei figli dei vostri figli, senza limiti. E, perché no, con altri messaggi che ci arriveranno dai maestri e dalle guide, o che potrebbero arrivare anche a voi, o ai vostri figli, o ai figli dei vostri figli, in un'ora futuro. Ho pensato, e il pensiero crea, le conversazioni come un work in progress destinato a crescere, con altri commenti, con altri messaggi. Non limitiamoci, espandiamoci. Pim.